Ok, buonasera a tutte e a tutti, grazie al Next Emerson per avermi invitato. Sono Andrea Bottalico, sono ricercatore universitario e faccio parte della rivista Napoli Monitor. E qui potete vedere dei numeri della rivista, ci sono anche le copie del libro che presentiamo questa sera, che presento questa sera. E ci sono anche delle copie omaggio che potete prendere del manuale Weapon Watcher, di cui magari vi parlerò durante questa presentazione. Dunque, cerco un attimo di spiegarvi il libro che presentiamo questa sera. Dunque, questo libro, Le frontiere del mondo, Viaggio nella filiera del container, è un libro che nasce da un percorso di ricerca scientifica, universitaria, etnografica, durato 4-5 anni. L'oggetto di questa ricerca è stato, diciamo, il lavoro, i conflitti e le mobilitazioni lungo la catena logistica del trasporto merci. Mi sono occupato per molto tempo di studiare, le mobilitazioni lungo la filiera logistica. E ho raccolto nel corso degli anni una mole di informazioni facendo ricerca sul campo. L'idea alla base della ricerca che ho iniziato a condurre nel 2015 era quella di studiare soprattutto i porti, perché ritenevo che attraverso l'osservazione e lo studio dei porti si potesse osservare tanto la globalizzazione, diciamo così, la natura globale del capitalismo quanto la natura capitalistica della globalizzazione. I porti sono delle infrastrutture critiche, attraverso i porti transita la merce, questa cosa intorno alla quale ruota ogni cosa in un certo senso, e quindi la mia volontà, il mio tentativo è stato quello di studiare i rapporti di potere all'interno di questi luoghi di transito delle merci e le contraddizioni che ci sono all'interno di questi luoghi. Quindi mi sono un po' appassionato a questo tema e ho cercato di approfondirlo, di studiarlo, di elaborarlo. Quindi diciamo così, il libro nasce soprattutto da una ricerca di natura scientifica, però è anche il frutto di una riflessione sulla forma, perché appunto per me questo libro ha diciamo così, una funzione politica, nel senso che ho cercato di elaborare un linguaggio, di riflettere sull'elaborazione di un linguaggio il più possibile fruibile verso l'esterno. Francamente, come ricercatore universitario, sento spesso una certa esigenza di rivolgermi verso l'esterno e di uscire un po' da quell'assuefazione e da quell'alienazione che provoca il lavoro accademico, attraverso poi un linguaggio che è quello accademico, quindi con una serie di criteri che bisogna rispettare e bisogna, come dire, assecondare in un certo senso. Quindi la forma di questo libro è anche il risultato di un lavoro di elaborazione su un materiale raccolto a partire da una ricerca scientifica, ma elaborato anche allo scopo di renderlo fruibile a chi di questi temi non se ne intende, non se ne occupa, non ne vuole sapere niente, ma anche a chi invece di questi temi se ne occupa ogni giorno, come i diretti interessati dei conflitti e delle mobilitazioni che ci sono lungo la catena logistica e che in un certo senso hanno bisogno anche di un linguaggio più accessibile per comprendere anche quello che viene raccontato. Quindi il tentativo è anche quello di restituire ai diretti interessati degli strumenti, anche dotarsi di strumenti per analizzare poi le relazioni di potere all'interno di questi luoghi. E quindi, quando parliamo di relazioni di potere, parliamo soprattutto del rapporto, del conflitto tra capitale e lavoro. Quindi cercare di capire anche chi è l'avversario, qual è la struttura, no? La composizione organica del capitale, chi abbiamo di fronte, chi è la controparte, come si comporta il management, chi è MSC. No, che appunto è un po' una multinazionale che viene molto affrontata nel corso di questo libro, viene raccontata, governata da questo padrone che, a differenza di altri padroni come Musk e Bezos, ha un profilo molto basso, no? Nessuno ha sentito parlare, o in pochi sanno chi è Gianluigi Aponte, una persona che lascia poche interviste in un certo senso, però stiamo parlando di gente che governa letteralmente la movimentazione delle merci su scala globale. Quindi il contenuto di questo libro è un po' il risultato di questa ricerca attraverso poi un linguaggio più agile, se vogliamo. Non direi divulgativo, perché appunto non amo la parola divulgativo, mi preme più ragionare sul senso politico del libro, perché lo vedo più come uno strumento anche per parlare poi alle persone, in questo caso i lavoratori che sono impegnati nelle lotte e nei conflitti, nei porti, ma non solo. L'ottica è anche quella di una riflessione sulla ricomposizione poi delle lotte e dei conflitti, anche perché appunto di fronte c'è l'avversario è talmente forte che ci vuole una forza almeno necessaria, diciamo, da mettere insieme per opporsi o per tentare quantomeno di metterlo in crisi, di scardinarne un po' i rapporti di forza e le relazioni di potere. Dunque, questo libro racconta di luoghi che sono principalmente i porti, il porto di Genova, diciamo, questo è un viaggio, si tratta di un viaggio all'interno di questi luoghi di transito delle merci. Uno dei primi luoghi che viene raccontato è il porto di Genova. E all'interno poi di ogni luogo viene raccontato in un certo senso, cioè, metto un po' in relazione le cose che accadono e cerco di rifletterci, dando anche delle indicazioni e ragionando anche un po' su quello che accade in ciascun porto. Ogni porto ha una sua peculiarità, ogni porto è diverso dall'altro. Il porto di Genova è un porto con una storia molto importante. Oggi, tra l'altro, c'erano i portuali alla manifestazione, GKN. E il porto di Genova è uno dei primi porti che ho studiato in particolare, e l'ho studiato soprattutto partecipando alle mobilitazioni che ci sono state nel corso degli anni. E due in particolare sono le mobilitazioni a cui ho assistito, che poi sono delle mobilitazioni che appartengono a tutto un percorso di lotta portato avanti dai portuali, e sono due mobilitazioni indicative, perché la prima è una mobilitazione sulla questione della sicurezza, e la sicurezza per i portuali è un problema centrale, perché nei porti muoiono un giorno sì e l'altro pure. È un lavoro di merda quello all'interno dei porti, un lavoro usurante, un lavoro 365 giorni l'anno, alle intemperie. Un portuale ad Anversa mi dirà che sono due i momenti in cui i portuali pensano di non rischiare la vita sul lavoro, quando iniziano perché non hanno esperienza e quando hanno quasi finito la loro carriera e quindi credono di essere sicuri di non avere nulla da imparare. Quindi è un lavoro pericoloso, un lavoro usurante, e uno degli scioperi, dei tanti scioperi che ci sono stati durante la mia ricerca, aveva a che fare proprio sulla questione della sicurezza. Ed è stato uno sciopero indicativo, a parte che è stata anche un'esperienza politica importante per me, perché appunto cerco di riflettere anche sul posizionamento di chi fa ricerca in questi casi, e per me è stata un'esperienza anche di crescita formativa partecipare con i portuali di Genova a queste lotte, a questi scioperi. Però emergono anche delle contraddizioni. Per esempio, questo sciopero che viene raccontato nel caso del porto di Genova aveva a che fare con la morte di un camionista nel terminal Voltri, e ricordo che, insomma, al varco c'erano dei camionisti che litigavano con i portuali perché il varco era bloccato dai portuali in sciopero. I camionisti, che avevano, come dire, la pressione commerciale, perché la merce non può stare ferma, si deve muovere, deve andare sempre più veloce, litigavano con i portuali. E quindi c'era questa contraddizione, perché i portuali dicevano: ma come, noi stiamo facendo sciopero perché è morto uno di voi e voi state litigando con noi per perché appunto andate di fretta in un certo senso. Quindi emergono anche queste contraddizioni nel corso dell'esplorazione, del racconto del viaggio, però sono problemi molto importanti, molto indicativi, che danno la cifra anche della eterogeneità della composizione della forza lavoro lungo la filiera logistica del trasporto. Abbiamo i marittimi, abbiamo i camionisti, abbiamo i portuali, abbiamo i lavoratori della logistica, quindi i lavoratori di magazzino. Come vedete, sono configurazioni lavorative, professionali estremamente diverse da loro, ma sono contigue, perché appunto il camionista entra in porto, va in banchina, il marittimo sta dalla nave alla banchina. Quindi si tratta di lavoratori che sono segmentati lungo una catena, ma nello stesso tempo poi sono oggetto di un processo di valorizzazione che li vede poi vicini, seppur distanti in un certo senso. Un altro sciopero molto importante al quale poi ho partecipato, viene raccontato nel libro, è lo sciopero della nave delle armi, che è una storia molto importante, e in un certo senso la racconto soprattutto perché per me, ma anche per altri compagni che fanno questo tipo di ragionamento insieme ai lavoratori nei porti, è importante cercare di mettere insieme il lavoro, le questioni sindacali con le questioni politiche. Cioè il fatto che appunto la lotta sindacale, quindi per la sicurezza in porto, per le condizioni, per i diritti, se vogliamo, i diritti, diciamo così, legati al lavoro, quindi le questioni più sindacali possono essere messi insieme ai diritti, alle questioni più politiche. E il porto di Genova, l'esperienza delle mobilitazioni, la storia che i portuali di Genova ereditano in un certo senso ce l'insegna, e noi abbiamo anche una responsabilità, noi in quanto osservatori, ricercatori e in un certo senso attivisti. E quindi il caso della nave delle armi, le mobilitazioni che ci sono state nel porto di Genova per mostrare questa contraddizione nel porto di Genova, di queste navi che transitano ormai costantemente nel porto e trafficano armi, è importante da tenere in considerazione, perché appunto ormai queste navi, quando transitano nel porto di Genova, il porto è militarizzato, c'è la Digos in banchina quando accadono queste cose, e i portuali sono stati capaci di far esplodere questa contraddizione, e da qui poi è nata l'associazione Weapon Watch, che è l'osservatorio sui traffici di armi nei porti e nel Mediterraneo, con alcuni compagni che si occupano proprio di questo e cercano un po' di mettere insieme, appunto di lavorare in ottica anche ricompositiva su questi temi, su questi argomenti. E quindi il tema della sicurezza e il tema delle armi, dei traffici delle armi. Un altro luogo che viene raccontato nel porto, nel libro, oltre al porto di Genova, è il retroporto di Genova. Ed è proprio finalizzato al tentativo di mettere insieme i pezzi. Come vi dicevo prima, lo ripeto, questo è un libro che ha una finalità, è un mezzo più che un fine, quindi il tentativo è quello di mettere insieme i pezzi e quindi di mostrare anche un po' che ci sono dei conflitti che possono essere messi in relazione, perché appunto io vedo anche in un certo senso le mobilitazioni come delle storie di accumulazione di esperienze, di pratiche che vengono tramandate, che vengono condivise, che vengono trasferite, no? Mi piace questa immagine della la galleria sotterranea, no? In un certo senso ci sono delle pratiche che possono essere condivise, che possono arricchire poi le altre mobilitazioni in corso, e quindi cerco di raccontare il retroporto di Genova proprio allo scopo di mettere un po' insieme i pezzi di questa catena logistica che è frammentata, ma soltanto da un certo punto di vista, perché nella realtà si ha a che fare poi con un processo economico che estremamente contiguo e lineare. E quindi il retroporto di Genova, c'è Piacenza, che è uno degli hub dove ci sono state le mobilitazioni più importanti. Cerco di raccontare un po' la storia di un facchino che poi appunto di Abdelsalam El Danf, che è morto durante un picchetto in GLS a Piacenza, e di tutta quella vicenda che poi si è ripetuta con il caso di Adil, no? alla Lidl in provincia di Novara. E quindi racconto proprio il retroporto per mettere insieme di nuovo, dicevo, i porti e i retroporti, cioè il fatto che appunto il porto di Genova ha un retroporto dove appunto anche lì ci sono delle mobilitazioni, dei conflitti che sono importanti, che bisogna insomma sostenere, quantomeno bisogna provare a dare insomma, il fianco a questi conflitti in corso. E un altro luogo che cerco di raccontare, una cosa che non ho detto e che in questo libro cerco di raccontare soprattutto anche la trasformazione negli ultimi anni avvenuta in seguito alla rivoluzione logistica, quella che definiamo rivoluzione logistica, cioè l'avvento del container, no? Questo oggetto che mette insieme i pezzi, quindi l'intermodalità come rivoluzione che trasforma i processi distributivi, che accelera i flussi e la possibilità di trasportare le merci un po' dappertutto nel mondo. E cerco di raccontare anche in che modo è avvenuta poi questa trasformazione, la storia un po' insomma raccontata nel libro. C'è questa figura, questo imprenditore portuale, imprenditore che fa, insomma, in realtà era un autotrasportatore che aveva avuto questa intuizione di vedere in un certo senso le merci anche come strumento di trasporto, e quindi la possibilità di mettere il camion sulla nave, no? L'intermodalità non è altro che questo, è la possibilità di trasferire la merce su più vettori, quindi dalla nave al camion, dal camion al treno, dal treno alla nave e così via. Questa si chiama intermodalità, e l'intermodalità ha rivoluzionato i trasporti in Italia. Questo, diciamo, questo è iniziato con, diciamo, negli Stati Uniti, poi la guerra in Vietnam ha accelerato questa rivoluzione logistica. In Italia sono negli anni 60-70 è arrivata in banchina un po' questa rivoluzione che ha trasformato radicalmente l'organizzazione del lavoro e anche i rapporti di potere, no? Di questi luoghi di transito delle merci, e quindi i porti, che sono sempre stati considerati come delle strozzature, no? Quindi questi luoghi dove appunto il potere di contrattazione di quella forza lavoro che si trova in questi choke points, le strozzature, è sempre stato forte, si ritrovano in un certo senso ad avere a che fare con un'altra questione, con un altro fenomeno in seguito all'avvento dell'intermodalità e quindi della containerizzazione, ecco. E accanto a questo provo a raccontare quali sono stati alcuni fenomeni che abbiamo vissuto in Italia. Il porto di Gioia Tauro è uno di questi. Il porto di Gioia Tauro ha una storia molto interessante. Io sono meridionale e penso che comunque il porto di Gioia Tauro abbia, come dire, la vita e il destino del porto di Gioia Tauro incarna in un certo senso l'evoluzione del capitalismo italiano, ma soprattutto del capitalismo meridionale. Un porto nato in mezzo alle Clementine in seguito a un'idea progettuale di trasformare quel luogo come polo siderurgico negli anni 70. Viene creata questa infrastruttura portuale enorme, un paese viene raso al suolo completamente e poi non succede niente, ci sono delle lotte, c'è tutta una storia, c'è Angelo Ravano che era un imprenditore un po' considerato il pioniere dell'intermodalità in Italia, che arriva a Gioia Tauro e si rende conto, perché aveva bisogno di un luogo al centro del Mediterraneo dove far trasferire le merci, un luogo di sinapsi, no? Per il traffico delle merci. Infatti Gioia Tauro è sempre stato un porto cosiddetto di transshipment, dove la merce praticamente appunto non transita tra le navi, non transita via terra, e scopre questo porto abbandonato e decide di investire negli anni 90 in questo porto e poi muore, e questo porto poi diventa uno dei principali scali delle merci su scala, diciamo così, a livello mediterraneo europeo. E anche lì ci sono delle storie molto interessanti di conflitti e di mobilitazioni di portuali che si ritrovano rispetto ai genovesi, che hanno una storia molto più lunga e quindi sono anche una storia di sindacalizzazione molto più lunga, molto più articolata, molto più approfondita. Lì si ritrovano dei portuali che il giorno prima erano lavoratori o dei disoccupati, no? Quindi in un territorio dove appunto c'era molta disoccupazione. Tra l'altro appunto c'è un portuale, ne approfitto anche per dire questo, Domenico Macri, sindacalista orsa, che è stato licenziato qualche mese fa e che ha deciso di portare avanti una mobilitazione contro il suo licenziamento, un licenziamento politico, perché Mimmo è un portuale, un sindacalista, un compagno che ha deciso di mettersi di traverso rispetto a un processo di negoziazione del contratto integrativo che era peggiorativo, e vi ricordo che Gioia Tauro il proprietario del porto di Gioia Tauro è MSC, che è questa figura che torna sempre nel libro, questa entità che si vede ma non c'è, c'è ma non si vede, no? Tutti quanti abbiamo visto i container MSC, ma non si capisce poi chi ci sta dietro, è una matriosca societaria che appunto non definisce bene. Noi non sappiamo esattamente chi è MSC, perché appunto è in Svizzera c'è il segreto bancario, e quindi noi non abbiamo idea di cosa sia esattamente questa multinazionale del mare che governa praticamente il 70% dei porti italiani, è presente nel 70% dei porti italiani. Ci tengo a specificare che è presente, non significa che è proprietaria dei porti italiani, perché i porti sono dei luoghi pubblici e gli operatori economici che lavorano, che decidono di utilizzare dei porti, lo fanno attraverso delle concessioni, quindi i porti sono dei luoghi demaniali, proprietà pubblica, e quindi questi operatori economici godono di queste rendite di posizione, ovviamente, in questi luoghi e governano praticamente tutta la catena logistica, perché poi sono presenti anche lato mare con le navi e lato retroportuale con i treni e quindi con i traffici multimodali. Quindi appunto di fronte alla fagocitazione, alla cannibalizzazione della filiera logistica c'è una forza lavoro che appunto cerca di organizzarsi nonostante le varie frammentazioni e le varie segmentazioni di ciascun caso, e Mimmo Macri sta portando avanti questa lotta, e quindi no, ne approfittavo per dirlo, perché appunto è importante che ci sia lavoratore portuale che decide di portare avanti una battaglia contro il suo licenziamento, perché è un licenziamento politico, il che significa condurci a una riflessione su come rendersi anche disponibili a questa battaglia, e ci dà anche la dimostrazione di qual è il modello di relazioni sindacali che hanno questi signori, che sono appunto i padroni, che credono di essere i padroni dei porti, non solo in Italia, perché appunto adesso ci arrivo, non vengono raccontati solo i porti italiani in questo libro, ma vengono raccontati anche altri porti. In un certo senso sono altri due almeno i temi che vengono raccontati, oltre al conflitto capitale-lavoro, per farla rapida, in questo libro e tutte le conseguenze. In un certo senso in questo libro emerge un po' il modello di sviluppo che viene concepito anche, come vi dicevo, i porti restano un osservatorio privilegiato per comprendere alcune caratteristiche del capitalismo globalizzato, e quindi ci forniscono dal mio punto di vista anche la possibilità di comprendere il modello di sviluppo che in un certo senso prevale, il modello di sviluppo egemone. E in questo libro emergono degli esempi che sono paradigmatici. Oltre al porto di Gioia Tauro c'è il porto di Marsiglia, che si sviluppa lontano da Marsiglia, si sviluppa a Foss, forse alcuni di voi avranno sentito parlare in questi giorni, perché a Foss ci sono stati delle importantissime degli scioperi che hanno bloccato, perché poi si tratta di un porto industriale, il porto di Foss, un porto dove appunto la merce principale è il petrolio, quindi è diverso da altre categorie di merci. Nasce in questo luogo, e c'è anche una storia molto interessante che ha a che fare anche un po' con le lotte ambientali, no? I conflitti ambientali, perché appunto ci sono appunto state delle vicende che poi sono state tutte battaglie perse, però questo non significa che non fossero state delle battaglie degne, no? Insomma, le battaglie vanno fatte a prescindere, e ci danno un po' l'esempio di che cosa vuol dire questo modello di sviluppo, di quanto è insostenibile, di quanto è non guarda in faccia a nessuno in un certo senso. Marsiglia viene raccontata Foss, e c'è il porto di Beirut che viene di nuovo raccontato anche in chiave pre-disastro, perché io ho avuto l'opportunità di esplorare il porto di Beirut, esplorare tra virgolette, prima che il porto di Beirut esplodesse. È stato impossibile entrare nel porto di Beirut, proprio perché si tratta di un porto inaccessibile, un porto militare in un paese dove la guerra sostanzialmente era finita, però appunto resta un luogo inaccessibile. Questo ti dice anche di quanto poi questi luoghi siano esemplari e forniscano poi anche la possibilità di non entrarci, ti dice quanto sia poi cruciale quel luogo, quel territorio anche, e anche la dissociazione dei porti dalle città, ormai negli ultimi anni con la containerizzazione polarizzazione, i porti si sono dissociati dalle città, il porto di Genova non è più a Genova, è a Voltri, il porto di Marsiglia non è più a Marsiglia, è a Fosso, e così via, no? Via dicendo. E dicevo appunto, il porto di Marsiglia è una storia molto interessante perché ci fa ragionare su questo modello di sviluppo insostenibile, finché non si arriva alla, come dire, al caso più eclatante di questo, di questa insostenibilità, che è il porto di Anversa. Il porto di Anversa è un porto tra i più importanti d'Europa, se non del mondo, e in un certo senso è un porto, come dico spesso, condannato a vincere, perché si tratta di un porto performante, con dei volumi di merci che vengono come dire, movimentati enormi, e quindi nel porto di Anversa, quando mi ritrovo da quelle parti, cerco di raccontare soprattutto questa idea di gigantismo e questa idea di, come dire, di sviluppo senza limiti, in un certo senso. Il porto di Anversa è un porto che deve sempre aumentare i volumi di merci da trasportare per stare al passo della competizione globale, per stare al passo di Rotterdam, per stare al passo di Amburgo, che sono appunto i porti vicini, no? I porti appunto in prossimità del porto di Anversa, e c'è un villaggio vicino il porto di Anversa che è in procinto di sparire dalla mappa, proprio perché al posto di quel villaggio verrà costruito un altro terminal container in un porto che quando ero lì nel 2018 movimentava circa 10 milioni di TEU, 10 milioni di TEU, TEU è l'unità di misura dei traffici containerizzati, e come dire, sono tantissimi, non si può immaginare la quantità di questi container che vengono trasportati, e quindi come dire, l'imperativo è quello di aumentare sempre di più i volumi, alzare sempre di più la posta. Un manager che intervisto nel libro ad Anversa mi racconterà che mi dirà che il limite, durante l'intervista io insomma, un po' ingenuamente, ma anche per cercare di stuzzicare la riflessione, gli chiedo: ma non pensa che ci debba essere però un limite, cercando anche un po' di interagire con una persona che era insomma aveva delle manie, cioè, siamo a dei livelli di megalomania insomma indescrivibili. Lui diceva: no, il nostro limite è il cielo, noi dobbiamo crescere come alberi nel cielo, non è inebriante tutto questo, quindi ti dava un po', in un certo senso, l'immagine di un'idea di sviluppo che non si può fermare, di un treno che deve andare sempre più veloce, di un modello di sviluppo che insomma, non può fermarsi, non si riesce a fermare, deve sempre aumentare la posta. E ovviamente poi ad Anversa insomma, viene raccontato anche un po' il contesto, insomma, le condizioni socio-economiche del porto, ma è lì che poi incontro dei portuali che mi raccontano anche le condizioni di lavoro all'interno del porto, insomma mi ritrovo in queste circostanze che mi forniscono degli elementi anche per capire la composizione, no, della forza lavoro coinvolta all'interno di questi luoghi, che è una composizione diversa poi da quella che si può trovare sulle navi, no, dove appunto c'è una forte razzializzazione della forza lavoro. Sulle navi ci troviamo spesso filippini, insomma lavoratori migranti, mentre invece nei porti appunto ci sono un po' queste forme di corporativismo che garantiscono la possibilità di tramandarsi il lavoro da padre in figlio, quindi una forza lavoro come dire, nel caso di Anversa, belga, quindi bianca, lavoratori che soprattutto insomma avevano uno dei problemi principali di questa forza lavoro era l'alcolismo, perché appunto si ritrovavano un po' a lavorare a chiamata, che è un po' la particolarità del lavoratore portuale. Un portuale a Genova mi dice: noi siamo il punto flessibile che esige la merce, perché appunto i portuali ad Anversa come a Genova, la cosa interessante anche questa, perché sono due casi molto simili anche se molto diversi per certi versi, esiste questa forza lavoro che lavora a chiamata, quindi quando sono necessari vengono chiamati, sono appunto la flessibilità della merce, la forza lavoro disponibile alla merce e alla movimentazione delle merci e sono la forza lavoro necessaria affinché questo processo di valorizzazione avvenga costantemente. Solo che c'è una differenza, che appunto il porto di Anversa è un porto estremamente performante e quindi una forte sindacalizzazione che garantisce degli standard anche di salariali piuttosto che di diritti elevati e diversi rispetto alla situazione genovese. E poi l'ultimo porto che cerco di raccontare, che è insomma un po' la fine di questo viaggio, dove potete immaginare, io insomma sono andato un po' a ruota libera, però volevo anche restituirvi l'idea di un viaggio che come spesso accade in tutti i viaggi, anche un po' cioè, ti perdi in un certo senso, no? A un certo punto tu vai alla ricerca di qualcosa, c'è qualcosa che ti spinge ad andare, che ti spinge a cercare. La cosa principale che a me spingeva era appunto domandarmi come si fa a vedere quello che non si vede, che sembra una domanda stupida, ma quando poi pensiamo alla containerizzazione non lo è, perché il container di fatto nasconde la merce, nasconde la possibilità di capire quello che c'è dietro, nasconde tutta la struttura reticolare che c'è dietro la produzione e la distribuzione delle merci dal punto A al punto B, dal punto di produzione al punto di consumo. Quindi questa domanda mi spinge ad andare ancora, e il punto finale è il porto di Rotterdam, che è un porto estremamente interessante nella misura in cui si tratta dell'unico porto dove esiste un terminal container completamente automatizzato. Quindi è un porto dove non c'è forza lavoro in banchina, ma il fatto che non ci sia forza lavoro in banchina, portuale in banchina, non significa che non ci sia lavoro. Ovviamente il lavoro c'è, ma non si vede in quel caso. Il lavoro è degli sviluppatori di software, è dei lavoratori che sono all'interno delle control room in un edificio accanto, e questo in un certo senso è il tema poi importante e estremamente dirimente per quanto riguarda anche le questioni sindacali nei porti, in questi luoghi di transito delle merci. Oltre alla questione della sicurezza, la questione dell'automazione, quindi la possibilità che il lavoro insomma tenda a sparire, che poi è una falsità, perché ci sarà sempre qualcuno che farà insomma ci sarà sempre un rapporto di lavoro, insomma non, anche quando non si vede il lavoro c'è, insomma c'è magari da qualche altra parte, ma c'è, magari si trasforma, ma c'è sempre. E il porto di Rotterdam è un po' il porto finale di questo viaggio, un viaggio che, come dicevo e come avrete anche magari capito, come ho cercato di trasmettere, è fatto anche di fasi di smarrimento. E questo è un libro che ho scritto, ho cercato di scrivere nel corso degli anni, ma ho chiuso soprattutto durante la pandemia. E la pandemia, l'emergenza sanitaria ha mostrato, ha fatto emergere un po' il volto invisibile della filiera del container. Ce ne siamo accorti tutti con la pandemia, ce ne siamo accorti tutti quando c'è stata la tempesta perfetta, che c'erano navi che trasportavano merci, c'era il canale di Suez che era l'arteria del capitalismo globalizzato. Ce ne siamo accorti tutti con la Ever Given, quello che significa il trasporto globale delle merci e quanto è importante poi per le logiche di valorizzazione del capitale in un contesto come quello globalizzato come oggi. E quindi il libro in un certo senso racconta attraverso ogni luogo anche questi momenti che sono appunto il periodo di cronaca, se volete, della pandemia e dei conflitti e delle mobilitazioni che ci sono state durante la pandemia, non solo nei porti ma anche nei luoghi, appunto nei magazzini. Quindi ci sono delle parti intervallate nel libro che cercano di spiegare anche quello che è successo durante la pandemia per tenere traccia, perché appunto lo ricordate, no? A un certo punto mancavano i dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro, non soltanto nei porti ma nei magazzini. Il lavoro essenziale era quello di chi doveva andarti a portare la merce a casa, la spesa a casa. Quindi a un certo punto quelli che lavoravano erano i lavoratori della logistica, i lavoratori portuali, i lavoratori, i rider, i driver, i corrieri, era tutta questa comunità umana impiegata lungo quella che io chiamo filiera del container, per rendere l'idea, ma erano tutti quelli che garantivano il corretto flusso e la corretta distribuzione di questi flussi di merci, che comunque si sono organizzati per cercare appunto di rivendicare. E quindi ho ritenuto anche importante non soltanto raccontare i portuali che si ritrovano con i Lines Seta Ultra davanti alla faccia e andare a lavorare perché mancavano le mascherine, perché mancavano i dispositivi di protezione individuale, ma anche appunto le lotte che poi ci sono state, che li hanno visti anche insieme, perché c'è stato anche un momento di, insomma, di scambio in varie occasioni e di, come dire, confronto tra lavoratori, non soltanto appunto della logistica o della filiera logistica. Io preferisco parlare di filiera logistica proprio per rendere l'idea di una continuità. E questo libro cerca appunto, ci sono delle parti in cui vengono raccontate pure queste, questi avvenimenti che sono di cronaca, ma in un certo senso sono stati la contemporaneità e hanno insomma fatto emergere un po' la strutturazione di questa di questo modello di trasformazione e del modo attraverso cui le merci vengono trasportate e vengono, insomma, distribuite. Mi fermo qui, insomma, ho parlato troppo. Ci sono... se ci sono delle domande, sì, un volentieri. Tiu. L'unità di misura consiste nel un container di 20 piedi. 20. Sì, praticamente adesso non ricordo l'acronimo, sono un po' stanco, però ci sono due tipi di container, da 20 piedi e da 40 piedi. Quindi diciamo che è un'unità di misura che insomma, ti dice di un TU sono due container. Adesso, insomma, non ricordo bene qual è la. Nel porto di Anversa sono 10 milioni di container all'anno. Questo stiamo parlando di 2018, quindi penso che i volumi siano. Ma la cosa interessante del sistema portuale italiano è che con l'intermodalità è nata nello stesso tempo anche la, come dire, la competizione tra porti, nel senso che una delle frasi emblematiche del comandante che governa i porti italiani e non solo, che viene raccontato nel libro, è: noi controlliamo, comandiamo noi perché noi governiamo i volumi di merci. Noi muoviamo la merce, noi siamo il peso e noi siamo la bilancia, quindi comandiamo noi perché governiamo questi numeri. Ma questi numeri, nel caso italiano, che è un sistema con tanti porti, sono sempre gli stessi, al massimo cambiano gli scali. Cioè il porto di Livorno magari fa un po' di più, ma fa un po' di meno Spezia, il porto di Genova fa un po' di meno, ma magari fa un po' di più Savona. Cioè i traffici nel loro complessivamente sono sempre gli stessi, ma siccome in Italia ci sono tanti porti, si crea una competizione in banchina tra porti. Nonostante poi ci sia, come dire, un contratto collettivo nazionale che almeno sulla carta stabilisce che, insomma, al porto di Gioia Tauro devono guadagnare lo stesso che guadagnano al porto di Genova. Su questo, almeno sulla carta, il contratto collettivo nazionale è unificato dagli anni 90, perché prima non era così. Ma comunque nel sistema portuale italiano, dove ci sono molti porti, c'è una competizione tra porti che non agevola di certo la possibilità di un coordinamento e di una ricomposizione. Perché poi è chiaro che Gioia Tauro ha una sua, dei traffici che non sono gli stessi dei flussi che passano per Genova e così via, o Trieste dall'altro lato dell'Adriatico e così via. Mentre invece nel caso di Anversa è l'unico porto belga, ma hai accanto Amburgo, Le Havre e Rotterdam, sono praticamente vicinissimi. Rotterdam e Anversa praticamente sono veramente vicini. E insomma competono moltissimo, e la cosa interessante è che il porto di Rotterdam, come vi dicevo, è automatizzato, il porto di Anversa no, e la produttività dei lavoratori di Anversa è minacciata dall'automazione del porto di Rotterdam, perché appunto ad Anversa i manager, quelli che governano appunto questi flussi, dicono: se voi non siete più produttivi di Rotterdam, non andiamo bene. Quindi l'automazione poi diventa una sorta di deterrente per essere più produttivi, più flessibili, più veloci. Quindi è la robotizzazione, però, come dire, umana in un certo senso. Sì, quando c'è stato, chiedeva del sciopero che c'è stato a Genova sulle Bari Yanbu, che sono queste navi appunto definite dai portuali navi delle armi, e in realtà quando c'è stato il blocco della nave, di fatto, perché c'è stato il momento in cui i portuali a Genova hanno bloccato questa nave e hanno fatto emergere questa forte contraddizione, perché si sono accorti che c'erano delle armi, cioè la prima volta nel 2014 si sono accorti che c'erano queste navi che portavano tante armi. È stato interessante perché poi appunto, e viene raccontato nel libro, che a un certo punto c'era questo sciopero che si doveva fare a Genova, ma non si sapeva quando la nave dovesse arrivare di preciso, e quindi c'è stato un coordinamento tra porti che questa nave doveva scalare prima di Genova per capire poi quando questa nave dovesse arrivare a Genova, finché poi non è arrivata, e c'è stato un momento di insomma, insomma, è stata una bella esperienza anche di mobilitazione collettiva, c'era di tutto quel giorno, io lo ricordo bene, c'era la società civile, c'erano i portuali, c'erano i lavoratori, c'erano i militanti politici di base degli spazi occupati, è stata un'esperienza condivisa da tutta la città, e come dire, c'è stato un confronto anche con altri luoghi, perché quella nave quel giorno veniva da altri porti, e quindi c'è stato un monitoraggio, e ci sono stati altri gruppi antimilitaristi principalmente che insomma si sono un po' coordinati con gli altri portuali, quindi a Marsiglia. Sì, che io sappia sì, poi ci sono state delle altre manifestazioni, altre esperienze, però diciamo che quella di Genova è stata diciamo l'esperienza più importante, perché i portuali hanno insomma sono stati loro capaci di dire: oh, ma qua ci sta una nave piena di armi, cioè, perché comunque è l'obiezione che poi genera questo tipo di consapevolezza. Ieri eravamo alla Spezia a presentare il libro con il presidente di Weapon Watch, e appunto, no, ripeto per chi c'è, che ci sono delle copie omaggio del manuale per Weapon Watcher, che come la definisce Carlo Tombolo è un po' la militanza dello sguardo, no? Chi vuole appunto perché ci sono dei dettagli tecnici, no? Per capire quale codice ti dice che quel container trasporta armi, e quindi magari appunto saperli, condividerli non è male, e è da lì che è nata l'esperienza di Weapon Watch, quindi dai portuali, è stata un'esigenza dei portuali, infatti appunto è stata un'esperienza importante, ed è dall'obiezione dei portuali che è emersa questa, è venuta a gallo un po' questa nave, e insomma è esplosa questa contraddizione. Poi si rifà ovviamente a una tradizione politica nel porto di Genova che parte da lontano. I portuali genovesi si sono mobilitati anche in passato su questioni legate alla guerra in Vietnam, insomma c'è sempre stata una sensibilità politica a Genova su queste cose, quindi c'era terreno fertile, no? Poi è successo anche a Livorno, cioè, nel senso, è successo anche in altri porti, non è successo soltanto a Genova. Il tentativo di Weapon Watch, ma anche di questo libro, cioè questo libro insomma è anche un po' un tentativo per andare a parlare di queste cose insieme insomma ai lavoratori, e poi coordinarsi anche un po' su questi avvenimenti, su queste vicende. Questa è una bella domanda. Allora, in Italia... Sì, dimmi. Di meccanizzazione intendi di automazione, no? Sì. No, figurati. Allora, rispetto alla prima domanda, in Italia, diciamo, la governance dei porti è pubblico-privato, no? Quindi è come se fosse che l'autorità portuale, che adesso si chiama autorità di sistema portuale, è un po' come l'amministratore di condominio, è lo Stato, è il pubblico che amministra gli spazi, le banchine, i terminal e li dà in concessione. La concessione, qui c'è la questione de jure e la questione de facto. De jure è sulla base anche di un piano industriale, nel senso che tu devi garantirmi un certo tipo di redditività, un certo tipo di produttività, un certo numero di occupazione, eccetera, eccetera, eccetera, e hai delle concessioni. Nei fatti è sbilanciato il rapporto di potere tra pubblico e privato, perché il privato dice: se tu non mi dai la concessione, io me ne vado. La famosa frase di Aponte: comandiamo noi perché comandano i volumi di merci. Noi abbiamo i volumi di merci, noi decidiamo se un porto può vivere o può morire. Quindi come funziona? Funziona che Aponte dice: se tu non mi dai la concessione, la sto banalizzando, ma nei fatti è così. Le relazioni di potere sono sbilanciate, sono squilibrate, e il privato dice: se tu non mi dai la concessione, io me ne vado in un altro porto, ma me ne vado con tutti i traffici. Quindi significa che dal punto di vista dell'autorità portuale sei praticamente l'autorità portuale, che è un nano in confronto a un gigante come MSC, per fare un nome, perché stiamo parlando di una multinazionale che come dicevo prima controlla tutta la filiera logistica del trasporto merci. E quindi tu che fai? Gli dai delle concessioni anche che possono durare 50 anni, per esempio. Il porto di Gioia Tauro, quando Ravano, questo imprenditore ligure, è andato al porto di Gioia Tauro e ha ottenuto la concessione sulla base di di un piano industriale, perché immaginati che vai a Gioia Tauro in Calabria, tassi di disoccupazione elevati, lavoro nero, insomma condizioni economiche, esercito industriale di riserva e così via, ti ritrovi lì, sei, come dire, a confronto, cioè hai il coltello dalla parte del manico e quindi fai forte in banchina, e quindi ottieni delle concessioni che possono durare anche 50 anni, 49 anni, che vengono poi prorogate, prolungate, anche sulla base del nulla, ma sulla semplice base del fatto che se tu te ne vai da là, te ne vai con tutti i traffici, e andandotene con tutti i traffici te ne vai anche con tutti gli interessi che ha poi il pubblico, no? A mantenere un certo livello occupazionale, soprattutto su un territorio come quello di Gioia Tauro, con disoccupazione elevata, no? Eccetera, eccetera. Rispetto al tema automazione, in Italia è un po' più complicato, perché in realtà l'automazione in Italia è poca roba. Non esistono terminal automatizzati in maniera così radicale. Esistono terminal che usano un po' una sorta di criterio incrementale di automazione e di innovazione, che trasformano le condizioni lavorative in termini di professionalità. Quindi magari tu, insomma, che è un po' quello che è successo a Rotterdam, no? Tu diminuisci il numero di lavoratori ma aumenti i salari di quei pochi che hai, per esempio. Oppure trasferisci un terminal a 40 km di distanza dal centro cittadino, perché appunto fai un terminal nuovo a Rotterdam. Molti dicevano che avevano deciso di automatizzare quel terminal. Il proprietario, tra l'altro, non è MSC, è Maersk, che è un altro attore globale, insomma, top del commercio marittimo, no? Il danese Maersk, che tra l'altro era alleato con MSC fino a poco tempo fa. Sono delle alleanze operative che fanno gli operatori economici per garantire certi itinerari e certi flussi, che sono in un certo senso in contrasto con le regole della competizione dell'Unione Europea, ma l'Unione Europea fornisce delle esenzioni a partire da alcune leggi che in sostanza chiudono un occhio su queste forme di alleanze operative. Questo per dirvi di chi stiamo parlando. Cioè, stiamo parlando di attori globali potentissimi che comunque si ritrovano anche ad ottenere dei vantaggi sulla base del loro potere che esercitano, perché MSC lo esercita a Gioia Tauro, licenziando chi osa rivendicare dei diritti, licenziano a Napoli perché Conateco, che poi i nomi cambiano, ma stiamo parlando delle stesse persone. Conateco, il terminal container Conateco a Napoli è sempre MSC. I lavoratori del porto di Napoli, del terminal Conateco, iscritti al COBAS, sono stati tutti licenziati. i Cobas al porto di Napoli hanno portato avanti una lunga battaglia legale, ci sono ancora dei lavoratori portuali che stanno facendo le cause su questi licenziamenti, ma di fatto è questo il modello di relazioni industriali che hanno queste persone qua. Chi osa mettersi di traverso viene licenziato. Per questo l'automazione è anche uno strumento per toglierti davanti i lavoratori portuali in un certo senso, però è un po' un'arma a doppio taglio, perché maggiore l'automazione, maggiore sono le responsabilità di quei pochi lavoratori che tu impieghi, e quindi in realtà gli operatori economici, prima di automatizzare completamente un terminal, ci pensano due volte, perché i costi per automatizzare un terminal sono molto elevati, ma anche perché il lavoro i flussi di merci non sono la catena di montaggio. Quindi si tratta di operazioni che richiedono ancora l'essere umano, non puoi robotizzare completamente. Il caso di Rotterdam è esemplare perché l'operatore economico che governa, che possiede, diciamo, in concessione il terminal è Maersk si può permettere di fare un esperimento, perché poi sono dei laboratori questi qui, perché tu vedi quanto puoi innovare, cosa puoi innovare, vedi quanto puoi alzare l'asticella sempre più, quanto ci vai a perdere. Siccome stiamo parlando di gente che ha dei profitti enormi, questi si possono permettere anche di spenderli sti soldi per sta roba qui, pure se la produttività non è alta in un terminal automatizzato. Proviamo a spendere e investire in innovazione, perché poi magari ci può ritornare con gli interessi fra 10 anni. Sono dei progetti a lungo termine. E un'altra cosa che ho dimenticato di dire, giusto per dare un po' il quadro di chi è MSC, perché è un'altra cosa importante da dire, che insomma, durante la pandemia MSC, a parte che ha guadagnato profitti indescrivibili, sul principio di una cosa che è abbastanza semplice, no? Quando c'è stata la pandemia, questi operatori marittimi hanno ridotto gli itinerari, cioè invece di fare in un itinerario 15 scali, ne hanno fatti 8, 7, 6. Riducendo gli scali aumentano i noli, quindi quei pochi traffici che tu devi fare li fai a dei prezzi enormi, che poi i traffici non è che sono, insomma, diminuiti, però in un certo senso ha fatto un po' distorto il mercato, aumentando i noli hanno ottenuto dei profitti enormi. Ed MSC ha vinto le gare d'appalto per le navi quarantena, per i migranti che sono stati insomma, rinchiusi durante la pandemia all'interno di queste navi, che sono le navi da crociera che ha utilizzato il comandante il giorno prima e il giorno dopo le ha utilizzate come navi quarantena. E si parla di un. Siccome noi non sappiamo il profitto di questi operatori, perché nel caso di MSC è in Svizzera, noi sappiamo che questo è stato un affare di 35 milioni di euro che il Ministero delle Infrastrutture ha fornito a MSC, che ha vinto una gara d'appalto fasulla perché ha fatto un prezzo, diciamo, corrispondente all'offerta e ha vinto le gare d'appalto per questo tipo di servizio e ci ha guadagnato pure su questa storia, ecco. Beh, grazie per l'attenzione. Volevo. Com'è? Sì, volevo giusto concludere dicendovi che qui ci sono le riviste dello Stato delle Città e delle edizioni Monitor, e domani ci sarà la presentazione del libro di Francesco Migliaccio, La Venere degli Stracci, che fa parte della redazione di Monitor, e quindi potete avere anche, diciamo, se volete, c'è un banchetto che poi magari dopo spostiamo sulle edizioni Monitor. Ecco. Grazie ancora per l'attenzione.